Le guardie dietro ho detto Tony accelera. Fottute guardie, fottuta cella. Una canna d'erba da 2 grammi accesa. Passala a noi oppure passa la sfera. Passala Izzy al commio oppure a Tedua. Da Roma a Napoli, da Milano a Genova. Mando un bacio a mia madre Carmela. Cuoricini e fratelli che stanno in galera. Mezza birra ma voi la versiamo per terra. Non parlare senza il cazzo della faccenda. Questi mi vogliono dentro come Guccio Mandela. Una collana gialla sembra Lisa Simpson. Una faccia di Cristo sembra Mel Gibson. Noi siamo drag, tu malamore. La nuova scissione sai come finisce. La mia vita tarantella tipo Tarantino. Tutti sera nera io qua la sera rapino. Dimmi dove ognuno esce giudicato. Dimmi dove, come, quando, che poti rovino. Voglio vino tavernello tipo Rabino. Saltare tra i palazzi con un lampino. Salutare i miei ragazzi con un abbino. Sicaro siamo i sicari, sicari cubani freccati a capo di chino. Sei con le ferro, sei di ferro. C'è solo il disco di Tiziano Ferro. Fa culo la tua cazzo di gangbang. Che dopo tu hai tennis mi arriva e mi ripete gang gang gang gang gang. Come la mettiamo si vede che io lo faccio come si deve. Arrivo con la polo gang e dong. Addio rapper, rock and roll, Red Hot Chili Pepper. Non andrò mai in galera con la gang. Da quando ero sperma passo giù a Secondigliano e torno gonfio in centro. Fumo così tanta erba che mi scambi per un negro. Lucciole sul collo, può vedermi anche un cieco. Quando passo c'è il sole, il mio pendente è una torcia. Come a Napoli nei boxer la pistola. La tua ragazza mi vuole al compleanno per torta. Mi vede entrare dopo diventa tutta rossa. Facciamo soldi, morti proprio come a Napoli. Fuori tutti quanti ragazzi dalle carceri. Liberi.